24 Mattino. Noi oggi abbiamo una torsione verso l'assurdo di commenti che ci definiscono come fotocopia del fascismo. Io non so se ci rendiamo conto di che cosa, di che gravità è questa frase. Questa legge elettorale prevede la possibilità di introdurre i collegi in misura minoritaria rispetto a quelli che erano con la legge Mattarella, che sarebbe stato molto più serio. Anziché avere il 100% di proporzionale, hai il 36% dove si sceglie sul collegio e il restante 64% sempre col proporzionale. Dove sia l'elemento fascista dell'avere i collegi, sfugge. E allora eccoci, 7:22, 18 secondi, Wildwood e Paul Weller che canta per noi, due piazze antifascistellum, ecco il fascistellum che fa arrabbiare Renzi, il titolo del Fatto Quotidiano, ora arriva la salva Verdini, nutro fiducia, l'editoriale di Marco Travaglio. All'opposto, perché è bello sentire le opinioni diverse sui giornali, il dalegrillismo, neologismo coniato dal Foglio, e il fascismo immaginario. È l'editoriale di Cerasa contro D'Alema e Grillo, addirittura c'è una foto con un morphing, una faccia composta a metà da D'Alema e da Grillo, e Cerasa ovviamente difende la legge elettorale. Pena di morte mai avvenire. Pure nel catechismo, il Papa, contrario al Vangelo, adeguiamo la dottrina. E l'editoriale è sui danni dell'economia sommersa, tutto il buio del nero. La verità, che continua a battere su un tema da giorni, un'inchiesta di Amadori e Claudio Antonelli, indagato il cerchio magico di papà Renzi, sviluppi dopo le perquisizioni della finanza, i due collaboratori più vicini al padre del segretario del PD sono sotto inchiesta per il fallimento di una cooperativa. Roberto Bargilli, la foto di copertina con uno scopettone in testa, era l'autista del camper di Renzi e oggi è indagato. Allora, Libero, lavoro nero, record al sud, 208.000 miliardi non tassati. L'Istat fornisce dati impressionanti e li andremo a vedere fra un po'. Il fondo di Pietro Senaldi racconta una storia curiosa, parte da un cartello terrificante, non si affitta a gay, immigrati, meridionali, ma racconta anche di qualcuno che non ha voluto affittare, pensate, a un cronista di Libero. Legge fallimentare, via libera alla riforma, il Sole 24 Ore racconta in apertura, anche questa anomala rispetto agli altri, ma importante ovviamente sul piano economico, perché passa al Senato la delega su crisi di impresa e insolvenza. Panucci, Confindustria, regole chiare e coerenti. Che bella, no? Questa cantata. Sesso, soldi e silenzi, scandalo Hollywood, Il Giorno, sembra un po' un tabloid inglese questa mattina, ma torna su un caso che ci interessa, che mi interessa e che ritornerò a raccontare nella rassegna. Tutti contro Weinstein, la moglie lo lascia, i politici amici Obama e Clinton lo scaricano, ma emerge sempre di più l'omertà interessata delle stelle del cinema. Il Tempo. La dura legge del Rosichellum, basta neologismi sulla legge elettorale, non se ne può più. La piazza, Grillini, Novax, Forconi, scissionisti, PD, Pisapia e il generale Pappalardo. Con il cuore c'era pure Napolitano. Mi trovate un frammento di Pappalardo oggi, se no non ha senso la vita. Tutti contro la legge elettorale, ma la fiducia regge. Il fondo di Gianmarco Chiocci, non ha titolo, ma è su questo. Il giornale... Chiamatemi i carabinieri, certo, non la faccio identificare dai carabinieri. E se lei, è un poliziotto come penso, lei è responsabile di un grande... Era un cameraman. Chiamate i carabinieri. La rivolta dei miracolati, ipocriti a 5 stelle, è il titolo del giornale, e intanto continuano a piazzare parenti e amici in riferimento alla polemica che tratta delle liste in Sicilia. La Gazzetta dello Sport si prepara al derby di Milano, i diavoli da derby, Inter Milano, intervista doppia fra due protagonisti rossoneri, Tassotti e Shevchenko. Mentre invece il Corriere dello Sport inneggia la rivoluzione Roma, il tecnico cambia modulo per bloccare il Napoli. Ale. Il Corriere della Sera, fiducia, i primi sì e proteste, e il fondo, la riforma è la prova del budino, è un fondo di Sabino Cassese. Repubblica continua a sparare sulla legge elettorale i primi due sì, scontro sul salva impresentabili, sì, perché qua c'è una notizia che ha solo Repubblica, quella scorciatoia, la leggiamo fra poco, a misura di Verdini di Carmelo Lopapa. Legge elettorale, La Stampa, rischio imboscate sul voto decisivo e un fondo di De Siervo, referendum, le false ambizioni, critico sul referendum in Lombardia e Veneto. Il costituzionalista famoso si esercita sul referendum lombardo-veneto. Legge elettorale, brivido finale, il titolo del Messaggero, i vantaggi, questo è l'unico, diciamo, fondo palesemente a favore del sì, del Blitz, e i suoi limiti. Il Manifesto, avanzi Paolo, non avanti Paolo, ma avanzi Paolo, la fiducia è discutibile, Renzi addosso al premier Gentiloni, ormai più popolare di lui, la responsabilità della camicia di forza sulla legge elettorale. Alla Camera passano i primi due articoli con il minimo dei voti, mentre i 5 Stelle e Sinistra mobilitano le piazze. Il fondo di Norma Rangeli, Renzi regala il megafono a Grillo. Allora, vedete, ci sono diversi modi di esaminare questa questione, ma oggi voglio partire da una cronaca molto bella. La Guerzoniera è ispirata oggi, pagina 3 del Corriere, che dà un po' il mood, il clima della Camera. Era bello girare per il transatlantico a raccogliere questi umori. La grande paura, il Corriere, pagina 3, Monica Guerzoni, si materializza dopo la prima fiducia, quando sul tabellone si illumina il 307 in corrispondenza del sì e i dirigenti del PD cominciano a compulsare i tabulati del voto. Chi lo ha strappato? Chi si è eclissato? Chi potrebbe tradire oggi nel segreto dell'urna? Più di 70 voti si sono persi per strada, lo provocano i giornalisti. Ed Ettore Rosato, capogruppo del PD, perde la pazienza. Ma dove stanno? Solo 11 dei nostri non sono venuti e 6 hanno il certificato medico. Pollastrini, malata da settimane. Cupero? No, lui non è malato, e neanche Giorgis, ma la loro è una scelta politica. Marco Meloni? Il certificato non serve, lo sanno tutti che non avrebbe votato la fiducia. E via così, come a voler schiacciare il fantasma dei franchi tiratori. Ma quali 101? Esorcizza i brutti ricordi del capogruppo del PD. Non possiamo perdere che 15 voti al massimo, che saranno compensati dai deputati del movimento di MDP che stanno con Pisapia. Che fa Ciccio Ferrara? Boccia la coalizione e si suicida? Un orlandiano titubante. In Toscana molti preferiscono le preferenze piuttosto che supplicare Bonifazi e Lotti per un posto in lista. L'ex azzurro Maurizio Bianconi, in transito al misto, si sfoga con Rosato e Giacomelli. Siete dei democristiani di merda! La ragion di Stato non può prevalere sulle regole. Il socialista Marco Di Lello tranquillizza i compagni, convinto che i franchi tiratori saranno al massimo 50 fra PD e Forza Italia. Ma nella testa di Rosato ronzano, racconta la Guerzoni, altre cifre. Partiamo da 400 voti, ne bastano 90 per mandarci sotto. Per il relatore Lelefiano l'asticella della grande paura è fissata a 120. Tranquillo io? Boh, diciamo che sono ottimista. Rosi Bindi ha votato la fiducia ma non voterà la legge. Un verdiniano confessa l'inconfessabile. Su due fiducie ne ho votata una per non perdere i 300 euro di diaria. Che bella quando un pezzo racconta così una giornata parlamentare e fa una grande fotografia. 7:28, pubblicità e meteo, poi torniamo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Cimici, calpestate senza dignità! Sì, 7:36 minuti, 43 secondi, Luca Telese, stiamo raccontando la giornata di oggi e quindi Repubblica, la notizia che vi avevo annunciato, pasticcio sulle candidature all'estero una norma studiata per salvare i Verdini. E quale sarebbe? La modifica della legge sui collegi all'estero, in cui potrebbero, con la nuova riforma, essere eletti anche cittadini residenti in Italia. Ecco la svolta, d'ora in poi, ci racconta Carmelo Lopapa, Repubblica, pagina 3, anche gli italiani in patria possono scegliere l'Oceania piuttosto che Nord America per approdare in Parlamento, ma con tanto di preferenze a suon di voti. L'emendamento porta la firma dei centristi di maggioranza, quella del capogruppo di AP Maurizio Lupi. Però la cosa curiosa è che Lupi, in questo articolo lungo, che ovviamente va letto, dove c'è un meraviglioso lampo in cui Renata Bueno, una parlamentare del PD, si lamenta col capogruppo rosato gridando «Non vorrei che al mio posto possa essere candidato un altro, magari Verdini». Ecco, la cosa incredibile è che Lupi, interrogato su questo emendamento, dice «Ma io l'ho sottoscritto, ma su richiesta del Partito Democratico». Cioè, come dire, l'ho presentato perché faceva parte degli accordi, ma non è un emendamento mio, ed è un mistero. Allora, vi dicevamo, questa polemica sul salva Verdini, sul Corriere Trocino, a pagina 5, racconta, ma devo trovare il Corriere però, porca miseria, è sepolto, eccolo qua, sul Corriere Trocino, a pagina 5, racconta le due piazze, di Movimento 5 Stelle e Sinistra, e Di Battista evoca Mussolini. Così solo il Duce parte la veglia per il voto organizzato dai 5 Stelle. D'Alema, il PD con questa decisione aiuta i populisti. E sentite cosa si diceva in piazza. Toninelli, deputato portabandiera della guerra Rosatellum, non è di estrema sinistra ma è molto arrabbiato. La legge è scandalosa. Gentiloni, un passacarte. Mattarella, spero che abbia il coraggio di rimandarla alle Camere. E se arriva al Senato la legge, che non si azzardino a mettere questo merdellum fascista, anzi da Corea del Nord, in calendario prima dei vitalizi. Questo era il tono della piazza 5 Stelle e andava reso, ovviamente. Galluzzo sul Corriere indaga un altro aspetto su cui da tempo gli editorialisti da due giorni lavorano, cioè sul colpo che questa fiducia offre, inferisce a il Premier Gentiloni. E Berlusconi dice: questa legge è il male minore, ovviamente, e forse ne viene avvantaggiato. Ma Galluzzo scrive questo retroscena: Gentiloni, la mossa per scongiurare rischi istituzionali. Eccolo qua. Certo, ci sarà anche il rinnovo dei vertici di Banca Italia, della Consob, le nomine dei vertici di AMA ed Esercito, la legge bilancio, una possibile fiducia sullo Ius Soli, tutte queste cose che attendono Gentiloni, ma la questione della fiducia a Palazzo Chigi oggi viene considerata esaurita. Sarà in qualche modo per il Premier una partita finale. Se andrà tutto liscio, se la legge elettorale sarà girata al Senato, una buona fetta del mandato del suo esecutivo sarà acquisita, altrimenti pagherà un prezzo. In fin dei conti Gentiloni ha fatto il supplente, è stato incoraggiato, ha preso una decisione che costituisce forse uno sbrego della sua immagine, ma che è ritenuto attenesse ai doveri della sua funzione. Ecco come Galluzzo spiega la posizione di Gentiloni, che ha accettato la scelta di Renzi. Mi dicevo sul Messaggero, Campi difende la fiducia perché secondo lui costringerebbe i 5 Stelle a candidature più importanti. Allora, a pagina 27, la conclusione del suo editoriale, Campi, come sapete, è un intellettuale che è stato vicino a Fini, a Futuro Libertà, e dice: questa legge penalizzerebbe i 5 Stelle perché non hanno grandi nomi da mettere in campo nei collegi nominali. Al momento è così, e perché loro sono prigionieri della retorica uno vale uno, è un'idea della partecipazione democratica che non fa differenza. Dal punto di vista della capacità politica, della rappresentatività sociale, fra un pasticcere, uno studente fuori corso, un ingegnere nucleare e un giurista con cattedra alla Bocconi. Ma potrebbe anche guarire questa legge da un simile infantilismo. Quindi la legge come strumento curativo per cambiare le candidature. Allora, abbiamo letto una parerata diversa su temi che sono affrontati, i protagonisti che cambiano. La concludo con Sorgi, a pagina 3 sulla Stampa, ancora sul Premier e su Renzi. Renzi sulla, con la fiducia ha avuto l'effetto di cancellare tutto il lavoro di dialogo e di mediazione svolto da Gentiloni in questi mesi e schiacciarlo sulla linea dura della segreteria del PD, con il tema della legge elettorale, che fra l'altro ha detto di quelli che non trattenevano le proprie perplessità, non è detto che sia così conveniente per il centro-sinistra, già perché questa legge avvantaggia molto il centro-destra nel nord. E allora facciamo un cambio di tema e andiamo su il suicidio assistito, perché oggi su Repubblica c'è una nuova storia, una storia forte, ed è quella di un uomo che racconta, ed è andato in Svizzera a morire: sono rimasto solo con la mia malattia. Loris Bertocco, Repubblica, pagina 19. Scelgo la morte e vi lascio l'amore. In questa lettera le ragioni dell'addio. Abbandonato dalle istituzioni, ormai non ho più i soldi per curarmi. È una scrittura in prima persona, comunque la si pensi, molto emozionante, ma veramente molto emozionante, e secondo me merita di essere letta. Si ha diritto a morire, sono i grandi temi che il dibattito civile in questi giorni oscura, ma non si possono eludere. Allora, Saviano, a pagina 42 di Repubblica, Massimo Giannini recensisce il suo nuovo libro, Il seguito della paranza. E sulla Verità ho trovato il pezzo Gemma Gaetani, più documentato sulla vicenda di Asia Argento, è l'unico che riporta con un po' di chiarezza il modo in cui il produttore che conculcava le fanciulle, Weinstein, si difende. Tutte le accuse di sesso non consensuale vengono inequivocabilmente negate dal nostro assistito, dice il suo avvocato, il signor Weinstein. Sono consapevole che il modo con cui mi sono comportato con alcune colleghe in passato ha causato molto dolore e chiedo scusa. Il produttore è volato giusto ieri in Europa, diretto in una clinica di riabilitazione per provare a guarire dalla dipendenza dal sesso. Pensate, è stato difeso da una sola donna, Donna Karan, la stilista, che ha dichiarato al Daily Mail: «Siamo noi donne che dobbiamo badare a noi stesse. Mi domando anche come ci mostriamo, che cosa chiediamo. Non ce l'andiamo a cercare mostrando tutta la nostra sensualità e sessualità, cercando ruoli, spazio». Dopo queste parole, la stilista è stata massacrata via Twitter da Rose McGowan. «Il tuo è un deplorevole sostegno, è un crimine morale. Sei feccia, sei solo feccia, con un bel vestito addosso». Strade in diretta. Ciao papà, sei obeso. Mattino. E eccoci, 7:46 minuti, 20 secondi, è iniziata la pagina dell'economia, i soldi e i soldi di Etruria. L'atto d'accusa agli ex vertici, banca spolpata e portata allo sfacelo. Sto leggendo Fabio Tonacci sulla Repubblica, ma c'è il pezzo della Sarzanini sul Corriere. L'ordinanza del Tribunale Civile di Roma non lascia margini di errore. Paradossale questa corsa all'abisso, sono le parole dei magistrati, sotto il peso di errori madornali. È stato violato ogni principio normativo di correttezza professionale. È stata dissennata, si legge ancora nell'ordinanza, l'erogazione di crediti senza garanzie, per la gran parte spesi nell'intento di agevolare soggetti legati agli ex esponenti aziendali, cioè agli amici. Allora, da leggere questo pezzo, da leggere la citazione di questi atti, gli amministratori, il dissesto, quattro foto sul Repubblica, Lorenzo Rosi, il presidente, Luca Bronchi, l'ex direttore generale, e Pierluigi Boschi nel CDA, vicepresidente dal 2014. La richiesta di risarcimento danni del liquidatore, storia incredibile di cattiva gestione, scrive Tonacci su Repubblica, devono restituire oltre mezzo miliardo. Al padre della sottosegretaria Boschi chiesti 15,8 milioni di euro. 15,8 milioni di euro, però sono incapienti. Sul Corriere della Sera c'è un'altra polemica legata a questa vicenda. a pagina 9, sì, perché nella commissione che dovrebbe indagare sulle banche è entrato il tesoriere del PD Bonifazi, che però è socio dei Boschi Junior, il fratello, e per questo è diventato il bersaglio delle accuse dei comitati delle vittime delle banche, dei correntisti, di coloro che avevano investito, e Bonifazi si è arrabbiato. Io li querelo, ecco che cosa faccio, appena torno a Firenze li querelo. A parlare l'avvocato Francesco Bonifazi, tesoriere del PD, deputato e fedelissimo da sempre in Matteo Renzi. Con chi ce l'ha Bonifazi? Scrive sul Corriere della Sera Marco Gasperetti a pagina 9. Ce l'ha con alcuni responsabili dell'associazione vittime del decreto salvabanche, che nella notte hanno appeso alcuni striscioni nel palazzo del suo studio fiorentino. Il motivo della protesta è la nomina di Bonifazi a membro della commissione d'inchiesta sulle banche, cosa che, secondo i protagonisti del Blitz, costituirebbe un oltraggio, perché il tesoriere del PD, come dice il presidente dell'associazione Letizia Giorgiani, è stretto amico di Maria Elena Boschi e addirittura socio in affari del fratello Emanuele Boschi, figlio dell'ex presidente di Banca Etruria Pierluigi Boschi. Emanuele è da tempo fra i partner dello studio legale e tributario, scrive ancora sul Corriere della Sera Gasperetti, fondato da Bonifazi. E allora, dice lui, sì, lavora con me, tutto è trasparente, basta guardare sul sito, commenta. E allora però il problema è che secondo loro c'è un conflitto di interesse: se è il tuo socio e la famiglia del tuo socio su cui giudichi, forse non sei serenissimo. E ovviamente io Questo principio minimo di cautela mi sembra che sia difficilmente negabile. Allora, la rottamazione bis sul Messaggero a pagina 11 ritorna la vicenda della rottamazione come possibile gettito, perché si lavora anche alla manovra. Statali, salvi gli 80 euro, così ci sarà la rottamazione bis. Una norma per evitare che gli aumenti annullino il bonus sugli 80 euro, ma c'è il nodo dei privati, scrivono Andrea Bassi e Luca Cifoni sul Messaggero, e saranno sanabili le cartelle fino a giugno 2017, quindi mettete la datina, perché fino a là potete rottamare. Sarà riammesso, attenzione, chi ha saltato le prime rate. Hai fatto la corsa, hai costretto gente a pagare, adesso riammettiamo chi non ha pagato le rate della sanatoria che sanava il mancato pagamento? Non lo so, mi sembra un po' complicato. Giannone sulla Verità a pagina 17 ci parla di un altro aspetto, ma io non trovo la Verità, siamo messi male. E c'è anche la vicenda del nero. Dunque, la Verità era qui. Dove sta? Eccolo qua. Allora, a pagina 17 con la fine del bazooka di Draghi, male i BTP, bene il tasso variabile, si avvicina la riduzione degli stimoli monetari della Banca Centrale Europea e i titoli di Stato italiani a cedola rischiano la batosta. Al contrario, secondo gli esperti, racconta Gianluca Baldini sulla Verità, le obbligazioni flessibili sopporteranno meglio il cambio di passo storico. Questa è una cosa che ci deve sicuramente preoccupare, perché l'impatto dei nostri titoli di Stato decidono ovviamente del nostro debito. Allora, perché i migranti non ci rubano il lavoro? Uno studio sull'Istat, che segnalo soltanto, è su Repubblica a pagina 17, la stima del nero 208 miliardi, 12.6% del PIL, e adesso possiamo andare alla mitragliata. Notizia curiosa sul Corriere della Sera: sapete qual è il posto in Italia in cui ci sono meno vaccini? Incredibile, in Alto Adige. Oltre 1000 bambini di lingua tedesca in aula senza vaccini, Margherita De Bach, l'allarme del Ministero sui numeri di Bolzano. Perché? Perché in Alto Adige, secondo le famiglie di madrelingua tedesca, il principio della vaccinazione sarebbe culturalmente contraria a tutto ciò che per loro è importante. Mi sembra una motivazione strana, sono due notizie che, sia la notizia e la spiegazione, che lasciano di stucco. Parma, questa è incredibile, La Stampa, pagina 12, viene data una casa del comune, viene concessa una casa del comune, una casa popolare all'ex dipendente che ha rubato soldi al comune. È un pezzo da leggere, Alberto Mattioli, La Storia, Parma. La donna era riuscita a portarsi via un cospicuo bottino dal Teatro Regio. Condannata, non ha mai restituito un euro. E che cosa succede? Gli danno la casa. Ma bene, diamoli, sì, vai. Il Giorno, pagina 3. Fallisce la riforma dei soldi ai portaborse dei parlamentari, quella che chiedeva che fossero pagati direttamente in chiaro. Il disegno si era innato la Camera, ma sì, facciamo così. Questa è meravigliosa, La Verità, pagina 23, perché non siamo l'unico paese folle. In Austria, pensate, è stata varata giustamente una legge anti-burka, ma i poliziotti hanno bloccato, multato e sanzionato un giovane poverino che indossava un costume da squalo per reclamizzare un supermercato. Silvia Di Paola, della Verità, che vuole dire anche all'estero c'è qualche follia. Allora, c'è un'altra notizia buffa, però nello stesso pezzo, sulle follie in Italia, abusivismo. La soprintendenza ai beni culturali ha ordinato lo smantellamento dell'eliporto allestito a Taormina per il G7 del maggio scorso. Ma dici, come mai? Era costato, racconta Di Paola, 1,8 milioni di euro, assieme all'altra elipista già eliminata, perché non sarebbe stata conforme allo strumento urbanistico e priva dell'autorizzazione paesaggistica. Ma la domanda, ma allora perché l'avete costruita, se dopo va smantellata sprecando 1,8 milioni di euro? E chiudiamo con due notizie. Uno, una bella citazione di Dustin Hoffman, che dice: a 80 anni mi sono stirato il tendine, mi tengo in allenamento sognando di fare sesso. Poetico Dustin Hoffman, vai, 80 anni. La perla delle perle in Inghilterra. Il censimento supera la distinzione maschio-femmina. Hanno annunciato, ci racconta Massimo Fini, giustamente un po' adirato sulle pagine del Fatto, che nel prossimo censimento inglese previsto per il 2021 non sarà più obbligatorio barrare la casella maschio-femmina per rispetto della privacy dei transgender. Beh, io ho tutto il rispetto ai diritti dei transgender, ma che nel censimento non si possa barrare la casella maschio-femmina a me sembra una follia. Mi faranno rinascere Giovanardi? No, spero di no. Sapete, dai, che vi dico? Io non voglio nulla.